se le complica la pobre Maria Ciusena, che chi su te c'è sul giusto, se tu su te c'è la gena, pure si sta la Ciusena, che si ingiusta se chiedo, porque il techo de su giusta alla gena se lo vio. Maria Ciusena stava echando su propria giusta, Maria Ciusena stava echando su propria giusta, che le passo por descuidar, se le complicó la cosa, que le passo por Maria Ciusena stava echando su propria ciusa, se le passò por descuidar, se le complicò la cosa, se le complicò la cosa, la cosa se le complica la pobre Maria Ciusena, che quiso techar su ciusa e si puso a techar la gena, pobrecita la Ciusena, che sin ciusa se quedó, porque el techo de su ciusa a la gena se lo dio. Maria Ciusena stava echando su propria ciusa, Maria Ciusena stava pobrecita la Ciusena, que sin choza se quedó, porque el techo de su choza a la gena se lo dio. María Ciusena estaba techando su propia choza, que le pasó por descuidada, se le complicó la cosa. Pobrecita la Ciusena, que sin choza se quedó.